Radio 24 Reportage. L'Italia che verrà. Cultura e spettacoli. Tornano le spese per il divertimento, ma di qualità. Di Marta Cagnola. Aumenta la voglia di spettacolo e di cultura nel nostro paese. Non è solo una sensazione, ma la tendenza positiva emerge con forza dai dati rilevati dalla Società Italiana degli Autori e Editori, la SIAE. Nel primo semestre 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, sono cresciuti tutti gli indicatori. Il numero di spettacoli, quindi l'offerta, più 0,67%, gli ingressi più 3,64%, la spesa al botteghino più 5,67% e il volume da affari più 11,46%. Fase espansiva finalmente per il cinema. Se si considerano solo i primi sei mesi dell'anno passato, abbiamo speso al botteghino il 9,26% in più. Parla di crescita il presidente dell'Associazione degli Esercenti ANEC, Luigi Cuciniello. Il cinema sta segnando una crescita rispetto almeno agli ultimi due anni, una crescita di spettatori e quindi di incassi. Quindi c'è un bilancio fondamentalmente e sostanzialmente positivo. In questo bilancio positivo c'è qualche piccola nota dolente legata ai film italiani, che questa stagione non hanno brillato. Tuttavia guardiamo con ottimismo al futuro, che Cozzalone sicuramente farà tornare la quota di mercato del cinema italiano a livelli ancora più alti del passato. Intanto il cinema da una parte si è allargato come modalità di fruizione a tutta una serie di piattaforme negli ultimi anni che prima non erano così frequentate, come le piattaforme web, come la televisione pay o digitale, quindi molti canali si sono affacciati diciamo nell'offerta per lo spettatore e quindi appunto la fruizione e il consumo si sono diversificati. Complessivamente io credo che si consumi più cinema del passato, sono cambiate le modalità con cui si fruisce del cinema, però nello stesso tempo possiamo dire che è cambiata anche la sala cinematografica, che oggi non propone più soltanto opere cinematografiche, ma propone attraverso la digitalizzazione che abbiamo avviato e completato negli ultimi anni tutta una serie di appuntamenti di spettacolo, opere liriche, eventi sportivi, dirette, visite ai musei che appunto arricchiscono l'offerta e fanno della sala un luogo di fruizione di tutta una serie di attività e di eventi culturali che offrono sicuramente allo spettatore un panorama estremamente interessante e più attraente. Nei consumi si parla sovente di nuova sobrietà, concetto che, dice il presidente ANEC, si può applicare anche al cinema. Beh, direi di sì, insomma, noi veniamo anzi, da questo punto di vista, se vogliamo parlare di modalità di fruizione degli appuntamenti culturali, possiamo dire che si tende un po' in generale, e non è necessariamente un segnale positivo, ad una concentrazione verso gli eventi, verso la giornata, la serata, il momento particolare. Questo non necessariamente, ripeto, positivo, però è sicuramente qualcosa che attrae dal punto di vista della comunicazione e il pubblico, gli spettatori, e attraverso però questo richiamo, questa forte calamita, questi attrattori, noi dobbiamo cercare di presentare la nostra attività nel suo complesso e agganciare a questi momenti che appunto richiamano l'attenzione dello spettatore altre proposte in un panorama che, come dicevo prima, oggi per la sala è molto diversificato. Secondo i dati SIAE, risultati molto positivi anche per l'attività teatrale, che vede tutti gli indicatori in crescita: spettacoli più 2,79%, spesa al botteghino più 4,28%, volume d'affari più 5,85%. Ottimi i dati dei concerti: il numero degli spettacoli è cresciuto dell'8,09%, la spesa al botteghino del 7,28%, il volume d'affari del 4,18%. Un aumento in un settore che però non aveva sofferto particolarmente gli anni della crisi. Gli italiani infatti hanno risparmiato in questi anni per comprare il biglietto di un concerto, ritenuto un valore importante, spiega uno degli organizzatori di concerti più influenti in Italia, Ferdinando Salzano, amministratore delegato Friends and Partners. Innanzitutto c'è un dato importantissimo, parlando del mercato italiano, che la crisi economica che ha toccato qualsiasi settore della nostra vita quotidiana in maniera straordinariamente positiva non ha toccato in maniera evidente il mercato dei concerti live, la partecipazione. Quindi c'è un dato che emerge, che le aziende che producono live come la nostra azienda non ha avvertito questo calo di interesse e di conseguenza di affluenza al botteghino, e sul quale io ho sempre dato questa mia voglio dire, giustificazione. Cioè, io credo che quella che io chiamo la piccola evasione, cioè quella di partecipare a un concerto e quindi di avere quelle due ore di evasione e di leggerezza rispetto anche a una giornata dove probabilmente la crisi economica ha acutizzato anche tutta una serie di difficoltà di vita, tutto sommato la gente non ci voglia rinunciare, rinuncerà alla macchina nuova, probabilmente rinuncerà a un viaggio in più, ma quella piccola evasione dei 50 euro, no? Che visto che è il prezzo medio dei grandi avvenimenti italiani, di musica italiana, è 50 euro, a quel punto non ci rinuncia. Quindi di fatto, come mercato della musica live, questa sostanziale differenza di questa crisi che sotto l'albero ci sta abbandonando, noi la musica live la sentiremo meno, cioè di fatto noi abbiamo vissuto, tra virgolette, in una situazione positiva. I consumi sono andati maggiormente dove c'è valore aggiunto, ed è in questo senso che la musica live ha tenuto? Assolutamente sì, non a caso se pensi che il botteghino degli incassi, parlando in termini di affluenza, ha comunque mantenuto delle grandi affluenze su tutti una serie di vecchi leoni della musica, questo significa che il contenuto rispetto a un contenitore, per quanto su altri artisti molto moderno e anche sicuramente più attuale, ha mantenuto comunque un certo tipo di appeal. È come se il passato ci rassicura, il presente è incerto, il futuro non esiste, cioè nel senso, per dire una battuta, quindi sicuramente sì, il contenuto e la neosobietà del valore di quello che noi stiamo offrendo, sicuramente sì, che poi sia un valore dato da un concerto spettacolare, che sia da un contenuto dato da contenuti artistici e cantautorali importanti, questa cosa chiaramente è avvenuta. Ovviamente credo che la vera difficoltà ce l'abbiano tutta una serie di artisti, tra virgolette, molto giovanili, che avendo un contenuto molto più variabile, molto più, come posso dire, da fiammata, quello sicuramente non. Se il pubblico deve scegliere, probabilmente sceglie maggiormente su dove c'è contenuto. I prezzi dei concerti sono rimasti più o meno invariati in questi anni? Più o meno invariati, ecco. Io ho mantenuto tendenzialmente i biglietti d'ingresso che avevo nel 2010-2011. Ecco, questo è stato un modo per combattere la crisi. Nella prima metà dell'anno Vasco Rossi guida la classifica dei primi 10 concerti campioni d'incasso al botteghino con la sua esibizione allo Stadio Meazza di Milano il 18 giugno ed è presente ben 5 volte nella top 10 con le altre date a Milano, Bologna, Firenze e Bari nello stesso mese. Tornando al cinema, il film campione d'incassi nel primo semestre 2015 è stato 50 sfumature di grigio. Nella top 10 del teatro conquista la prima posizione lo spettacolo di Enrico Brignano Evolution. Tra le opere liriche si è attestata al primo posto La Ida di Giuseppe Verdi, andata in scena al Teatro alla Scala di Milano. Anche per il settore della musica il 2015 è stato l'anno di un'importante inversione di tendenza. Secondo i dati Deloitte elaborati per la FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, i primi 9 mesi dell'anno erano stati estremamente significativi. Il settore ha registrato un giro d'affari di 93,9 milioni di euro, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2014. È cresciuto di poco sopra la media il digitale, 27% per circa 43 milioni, mentre nonostante i nuovi metodi di fruizione della musica regge il segmento fisico, che registra ricavi per 50 milioni, registrando un rialzo del 23%. Sempre di più, il disco, infatti, è un oggetto da possedere, un oggetto da collezione. Claudio Ferrante, presidente e fondatore di Artist First, società italiana di distribuzione commerciale nella musica. Nelle ultime 4 settimane, quindi quelle su cui ci focalizziamo in qualche modo per monitorare i consumi degli italiani nel mondo della musica, sono stati venduti ben 1.200.000 pezzi di CD. Quindi parliamo di 1.200.000 CD venduti nelle ultime 4 settimane, che vuol dire che il CD torna ad essere un oggetto regalato a Natale, non solo CD ma anche confezioni speciali, quindi confezioni che con 30 euro, 50 euro regali il mondo dell'artista ad un appassionato, ad uno che sai che un'amica, a chiunque possa amare un oggetto da tenere sullo scaffale. Sono cambiati in questo senso. Prima non si dava così tanto valore all'oggetto perché c'era la grande speranza di trovare nella musica digitale un po' tutta la library del mondo disponibile quando vuoi. Ma in questo momento però Natale ci sta dicendo esattamente il contrario. Al di là di tutti gli altri prodotti, il CD è l'oggetto più regalato a Natale. Per esempio ci sono le confezioni deluxe di Mina, ci sono le confezioni deluxe ad esempio di Tiziano Ferro, artisti che al di là del CD e dei brani hanno inserito dentro album fotografici, dei memorabilia, quindi torna a diventare un qualcosa da regalare, come un bel libro illustrato, come un oggetto che puoi avere sullo scaffale. Quindi dal concetto di accesso al brano del momento attraverso le piattaforme streaming, al concetto di possedere una parte di lavoro dell'artista. Inevitabilmente poi alla fine la voglia di possedere questi oggetti riguarda soprattutto però i grandi artisti classici. Sì, grandi artisti classici, quindi Mina, i Pooh, Tiziano Ferro, che anche se non è un artista classico è comunque un artista che ha venduto tantissime confezioni deluxe, Ieri le storie tese, Ivano Fossati e tanti altri. Il nome è una garanzia. Quando spendo 50 euro o anche 100 euro decido di farlo per un artista di cui mi fido, mi sono fidato negli anni. Ciò non toglie che ci possono essere delle confezioni deluxe molto curate, molto lussuose, che è davvero un'esperienza aprire e in qualche modo avere accesso ad altro che non sia il semplice CD.